Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come già ieri vi avevamo annunciato in diretta, oggi lo trovate su molti giornali. Insomma, la decisione, devo dire, anche lì già anticipata da Wall Street Journal, della Casa Bianca, di andare sostanzialmente a far pagare le agenzie di rating, una soprattutto in questo caso, perché Moody's e Fitch restano fuori la responsabilità, con una causa civile senza precedenti andrà all'agenzia di rating, ossia quelle agenzie che danno il voto ai debiti dei paesi ma anche dei singoli emittenti privati, l'agenzia è Standard & Poor's. Ora, più volte ce ne siamo occupati, perché quello che è successo nel 2007-2008 non era la prima volta che capitava di vedere un titolo o un gruppo fallire o avere grossi problemi nonostante il voto dato sulla sua affidabilità fosse ancora alto. Penso per esempio alla vicenda Parmalat, lì però si disse Tanzi aveva nascosto i conti, cosa potevamo farci. Il caso invece di quello che è capitato nel 2008 è ben più complesso, perché moltissimi titoli poi rivelatisi ad altissimo rischio, o perché prodotti derivati, o penso a Lehman Brothers come banca in sé, o altri prodotti legati ai mutui, venivano dalle agenzie di rating, cioè non fornivano le agenzie, in questo caso Standard & Poor's, un adeguato allarme su questi titoli. Allora, siccome quando uno investe si va a vedere quello che è il rischio, e il rischio viene misurato anche per l'eccesso di potere che abbiamo dato, l'Europa in primis, con varie regole bancarie, alle agenzie di rating, è chiaro che non è semplicemente, come dicono loro, un giudizio, un'opinione. Un'opinione è la mia, è la vostra e quant'altro. Quella è una cosa che certifica quasi l'affidabilità di un titolo. E quindi non ci si può limitare a dire, come fanno le agenzie di rating, ma noi abbiamo fornito un'opinione. Un'opinione molto pagata, che cambia il valore del titolo e soprattutto rischia di ingannare chi poi investe, perché se vede accanto un buon voto, un voto medio, pensa che il titolo non sia così rischioso. Obama vuole chiedere 5 miliardi a Standard & Poor's per risarcire parte dei danni causati dalla crisi dei mutui subprime. Secondo l'accusa del Dipartimento della Giustizia americano, che Standard & Poor's avrebbe gonfiato le valutazioni di alcuni mutui ipotecari, e pur essendo a conoscenza dei rischi avrebbe continuato a dare un giudizio troppo positivo. Faccio notare che poi effettivamente è successo invece che quei mutui fossero ad altissimo rischio, come poi la crisi ha dimostrato. 120 pagine di dossier depositate al Tribunale di Los Angeles. La cifra è enorme. Perché? Perché 5 miliardi vuol dire 5 volte i ricavi di Standard & Poor's nel 2011. Giustamente sottolinea un altro ascoltatore anche la vicenda Enron, certo. Insomma, più volte abbiamo assistito a inspiegabili giudizi positivi. Due le possibilità avanzate. In primo luogo, il conflitto di interesse delle agenzie, e cioè se tu ricevi soldi dall'ente che devi valutare, insomma, con tutta l'onestà intellettuale, però se io sono un tuo cliente affezionato che ti paga moltissimo per darmi un voto, per dare un voto al mio debito, alla mia situazione finanziaria, può essere che se sono un cliente molto importante tu abbia un occhio di riguardo, e può essere che pur di non perdere il cliente o comunque insomma, per il rapporto che si è creato, tu sia un po' più buono. Secondo aspetto, dentro le agenzie di rating, a partire da Standard & Poor's ma anche Moody's, ci sono fondi comuni di investimento. Allora, loro giurano che la mano destra non sa quello che fa la sinistra, ma il sospetto, il dubbio è che delle volte, diciamo, vi sia un conflitto di interessi tra i soci, gli azionisti, che sono fondi importantissimi di investimento che investono in titoli, e quello che dice l'agenzia di rating. Tra l'altro, giustamente scrive un ascoltatore, non si può dire che sono opinioni, perché l'opinione è una cosa che uno dà così altra cosa è la professionalità che loro esigono gli venga riconosciuta, e quindi non si può semplicemente dire ma era una valutazione fatta così. Che primo tema, tema importantissimo, anche perché sapete che in Italia la Procura di Trani ha messo sotto inchiesta alcune agenzie di rating per i giudizi formulati, e quindi la mossa di Obama, la prima mossa diciamo da quando è presidente, e quindi da più di 4 anni, così netta e così dura contro quello che è diciamo lo status quo di Wall Street, perché le agenzie di rating fanno parte a pieno titolo del GOT della finanza americana. Vediamo quali saranno le reazioni, ma ne parleremo nei prossimi minuti. Poi, come sempre, la borsa perde lo 0,38% Milano, perde di più Parigi l'1,20, Francoforte lo 0,90, Londra invece è invariata, l'America è invariata. Chi va bene oggi? Azimut più 4%, Buzzi Unicem più 3,20, Saipem più 2,60, Terna più 2,30, Exor più 2,20, Fiat più 2%, Finmeccanica guadagna anch'essa il 2%, Enel l'1,70, Campari l'1,5, Monte dei Paschi l'1,30%, bene anche la Popolare di Milano più 1,20. Chi perde? Mediobanca il 3,55% in questo momento, Tenaris il 3%, UbiBanca il 2,20, Snam perde l'1,5%, Mediolanum l'1,30, Enel anch'essa l'1,30, Intesa San Paolo meno 1,20, Popolare Emilia Romagna meno 1,10% Telecom Italia anch'essa l'1,10% di calo. Poi parleremo come sempre della vicenda Monte dei Paschi, ci sono aggiornamenti anche oggi e soprattutto c'è il Consiglio di Amministrazione. Da quello che si capisce, le perdite che la banca subirà per via degli investimenti in derivati, rivelatisi poi non solo rischiosissimi, ma investimenti folli per il danno che hanno creato, le perdite non saranno più di 700 milioni di euro. Sto parlando di quei derivati ormai noti, cioè l'operazione Santorini e Deutsche Bank, da un lato Alexandria Nomura e l'altro nota Italia JP Morgan, chi era la controparte in questo caso. Ebbene, non perderebbe più 700 milioni di euro il Monte dei Paschi, ma quasi 1 miliardo da queste operazioni sui derivati, nello specifico 450 milioni sull'operazione Santorini Deutsche Bank, 300 milioni sull'operazione Alexandria fatta con la banca Nomura e 170 milioni di perdita sull'operazione fatta con JP Morgan che si chiama Nota Italia. A questi si aggiungono 120 milioni di costo del personale non contabilizzabili, e quindi siamo a 1 miliardo di perdite aggiuntive in più, e questo in un consiglio di amministrazione che la prossima settimana emetterà 3 miliardi e 900 milioni di Monti Bond per rafforzare il suo patrimonio. Cosa succede sostanzialmente? Monte dei Paschi chiederà un prestito da 3 miliardi e 9 emettendo delle obbligazioni che verranno tutte comprate dal Tesoro, e questo è l'aiuto che dà lo Stato al Monte dei Paschi. Gli interessi sono al 9%, possono arrivare fino al 15%, cioè ogni 2 anni l'interesse che il Monte dei Paschi dovrà pagare al Tesoro aumenta di quasi un punto percentuale. E come si possono pagare questi Monti Bond? O cash, quindi dando i soldi al Tesoro, oppure emettendo altre obbligazioni, quindi aumentando ancora il debito verso lo Stato, oppure con azioni proprie, cioè dando al Tesoro, in cambio invece che i soldi, azioni del Monte dei Paschi. Quest'ultima ipotesi vorrebbe dire però banalmente che il Tesoro, quindi lo Stato, entra dentro la banca, e quindi in parte per salvare la banca dovrebbe essere in parte nazionalizzata. Questo è il tema anche del Consiglio di Amministrazione di cui parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook, sempre per comunicare con il programma. Le altre notizie in breve. L'oro è poco mosso a 1673 dollari l'oncia, il petrolio a 95,7 dollari al barile. Ne parlavamo di borse, ma la notizia del giorno oggi è quella che arriva dal Giappone. Dopo che ieri l'America con il Dow Jones era tornata di nuovo sopra i 14.000 punti, ossia il livello più alto dall'ottobre del 2007, da prima che scoppiasse la crisi, anche la borsa giapponese ha chiuso ai massimi da prima che scoppiasse la crisi, dal settembre del 2008. L'indice Nikkei infatti è salito a 10.460 punti, più 3,77%. E di che cosa si avvantaggia? Beh, le dimissioni anticipate del governatore della banca centrale giapponese, Masaki Shirakawa, ma anche il rapido calo dello yen nei confronti del dollaro e soprattutto dell'euro, e che dovrebbe avvantaggiare le esportazioni giapponesi. La Germania, veniamo invece all'Europa, ha respinto le richieste e gli appelli della Francia per intervenire contro il continuo rafforzarsi dell'euro. Ieri infatti il presidente francese Hollande aveva detto: attenzione, dobbiamo avere una politica sui cambi con obiettivi realistici, altrimenti l'euro forte, perché in realtà sono deboli lo yen e il dollaro, rischia di cancellare gli sforzi sulla competitività che l'Europa, che l'euro sta producendo. Berlino non è d'accordo nemmeno con le premesse. Dice infatti: l'euro non è sopravvalutato se si guarda la media storica. Lo ha detto il portavoce della cancelliera tedesca Steffen Seibert. A me sembra ancora una volta che i tedeschi confondono il loro interesse personale con l'interesse dell'area euro, perché la serie storica, non capisco a cosa si riferisca il portavoce di Angela Merkel. L'euro è stato anche a 0,89, a 0,90 nei confronti del dollaro. Molti dicono che un rapporto corretto sarebbe di 1 a 1, un dollaro, un euro. Siamo a 1,35, cioè l'euro vale il 35% in più rispetto a un rapporto di cambio corretto 1 a 1. Forse per i tedeschi non è un problema, perché abituati al marco forte, un euro a 1,35 non gli crea grossi problemi, forse per il tipo di struttura produttiva e industriale che hanno, perché hanno grandi gruppi spesso delocalizzati nelle aree di produzione in Cina, in Brasile, in India. Ma non è che l'Europa e l'area euro sia solo la Germania, no? Caro Steffen Seibert, l'euro non è sopravvalutato? Vediamo, perché secondo moltissimi economisti è assolutamente sopravvalutato, ed è il modo in cui l'America sta recuperando terreno tenendo basso il dollaro. Dopodiché, fa prima dirci la Germania, l'euro non è sopravvalutato rispetto al marco, almeno ci chiariamo, no? Poi mi fa impazzire la risposta tedesca, dice: attenti, i cambi valutari non possono essere utilizzati come strumenti per recuperare competitività. Allora, mettiamoci d'accordo, cara Germania. Sono tutti pazzi gli americani e i giapponesi a questo punto, perché invece in America e in Giappone usano il dollaro debole e lo yen debole proprio per recuperare export e competitività. Allora, sono tutti pazzi tra i tedeschi, va bene. Di Monte dei Paschi abbiamo già detto. Venendo all'Italia, lo spread italiano torna a crescere, continua a essere più alto delle ultime settimane, a 294 punti, vicino ai 300 punti base. E invece fa impressione quanto riporta oggi la relazione dell'Istat nel rapporto sul reddito disponibile delle famiglie nelle regioni, perché si scopre che in Italia il reddito disponibile per abitante è di 20.800 euro. Però è 20.800 euro nel nord-ovest e nel nord-est, praticamente identico. Si scende a 19.300 euro nel centro e si scende a 13.400 euro nel mezzogiorno. Ora voi mi direte: c'è il nero, c'è l'economia sommersa. Ho capito, però. Questi dati ufficiali, che vuol dire che nel nostro sud il reddito disponibile è un quarto, cioè il 25% in meno rispetto alle altre regioni. Un'ultima notizia prima di passare invece a come sprecano i soldi le nostre regioni o le difficoltà delle nostre regioni. Certo che abbiamo notizie anche su Bruxelles, perché pur la Commissione Europea non è che brilli in risparmio e efficienza, però una notizia su Alitalia che già i nostri GR vi hanno ricordato. Il procuratore di Civitavecchia Gianfranco Amendola, che indaga sull'aereo della Carpata Air finito fuori pista a Fiumicino, poi gli hanno levato la livrea di Alitalia, ricorderete la vicenda, beh, ha aperto un nuovo fascicolo su Alitalia questa volta. L'ipotesi di reato per l'Alitalia sarebbe frode in commercio, mentre, come riporta oggi Sole 24 Ore, tra i possibili acquirenti di una quota del capitale Alitalia potrebbe spuntare nuovamente la compagnia di bandiera russa Aeroflot, che già nel 2007, ricorderete, era tra i pretendenti, erano sei pretendenti per acquistare la compagnia di bandiera italiana. In quel caso Aeroflot era incordata con il gruppo bancario Unicredit. E allora, prima di passare alla guerra di Obama, chiamiamola così, la guerra di Obama alle agenzie di rating, occupiamoci ancora degli sprechi delle nostre regioni, ripeto, ma anche di Bruxelles. Abbassare, non sarebbe più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, sarebbe più ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, potrebbe più auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, potrebbe più panico alla regione Calabria. Perché dico panico alla regione Calabria? Perché i politici calabresi si sono confrontati forse per la prima volta con la crisi. Che cosa è successo? Sono finiti i soldi nelle casse della regione scusate, e quindi i 50 consiglieri regionali della Calabria non avevano a martedì, quindi a oggi, praticamente fino al pomeriggio di ieri, non avevano ricevuto il loro stipendio di gennaio. Panico, in realtà è bastato fare quattro conti, i soldi si sono trovati, ossia dopo poche ore l'assessore al bilancio ha trovato i soldi per i consiglieri, ma ha liquidato 17 milioni di euro, ha trovato i soldi per i consiglieri, ma ha anche trovato 17 milioni e mezzo per il funzionamento dell'assemblea legislativa. E quindi anche i soldi per le aziende sanitarie, per i sorveglianti idraulici, per gli operai forestali, per il trasporto pubblico. Sembrava veramente che fosse mancato qualunque tipo di risorsa. È vero che il bilancio del Consiglio dal 2010 a oggi è stato ridotto di circa 20 milioni di euro. E inizialmente il presidente dell'Assemblea, Francesco Talarico, aveva detto: garantirò gli stipendi ai dipendenti e al personale delle strutture, e magari non li riuscirò a garantire ai consiglieri. Invece li ha trovati anche per i consiglieri. Dico semplicemente una cosa: siamo contenti che vengano pagati i consiglieri della Regione Calabria. La Regione Calabria perde 260 milioni all'anno solo di spesa sanitaria, cioè in 10 anni ha accumulato 2 miliardi di buco nella spesa sanitaria. E non, senza offesa, non perché la sanità calabrese voglia far concorrenza a quella svizzera o svedese, perché diciamo ci sono costi assurdi, sacche di plasma pagate 16 volte più che in Val d'Aosta, l'ipotesi molto forte dell'infiltrazione dell'andrangheta, delle mazzette, delle tangenti, delle ASL e quant'altro. Cioè, sono costi ingiustificati se non dalla corruzione. Però al di là di questo, e nonostante la crisi di liquidità, si sono trovati soldi, oltre che per i consiglieri e per appunto i dipendenti, anche per la Fondazione Calabresi nel Mondo, fondamentale immagino, fondamentale perché guidata da Pino Galati, candidato del PDL alle prossime elezioni. Trovati subito 120.000 euro e comunque in bilancio hanno messo 440.000 euro. E poi Tra l'altro, nonostante i consiglieri abbiano accettato la decurtazione dell'indennità, che a questo punto è stabilita in 6.700 euro, faccio notare che la Regione Calabria continua ad avere 10.500 guardie forestali. Ora voi direte: sono tante, sono poche? Ma facciamo due conti: sono 10.500 guardie forestali, l'area boschiva calabrese di 6.500 chilometri quadrati. Sono il doppio, più del doppio dei ranger canadesi. Adesso io capisco la Sila, l'Aspromonte, però 5.000 ranger canadesi, quelli con il cappello rosso, la giacca, sono i mitici ranger canadesi, gestiscono 400.000 chilometri quadrati di foresta. 10.000 forestali calabresi gestiscono 6.500 chilometri quadrati di foreste in Calabria. Secondo me, visto che in Canada non ricordo di questi incendi, in Calabria sì, forse lavorano bene anche i ranger canadesi. Pensate, 5.000 per 400.000 chilometri contro 10.000 per 6.500 chilometri. Chiudiamo con Bruxelles, che la crisi c'è, ma non, come sempre non c'è per tutti. Lo scorso ottobre l'80% degli eurodeputati ha votato per avere una sola sede di lavoro. Perché? Perché per qualche motivo strano, una volta al mese tutto il Parlamento di Bruxelles si trasferisce a Strasburgo. Sapete quanto costa sta roba? 170 milioni di euro, ma nel 2002, attualmente la spesa dovrebbe aver superato i 200 milioni di euro, e c'è chi dice siamo vicini ai 350 milioni di euro per portare tutti gli eurodeputati da Bruxelles a Strasburgo, che obiettivamente non frega niente a nessuno, che stiano tutti quanti a Bruxelles. Fu l'accordo per mettere assieme Francia e Germania, ma erano beghe degli anni 50, per cui voglio dire, perché la Germania voleva che avesse una sede in Germania e quell'altra in Francia, allora si decide di fare Bruxelles e Strasburgo. Comunque, 751 deputati che si spostano 12 volte l'anno per tre notti con tutti gli assistenti e con gli alberghi che non sono esattamente due stelle, più 587 missioni mensili, centinaia, 200 giornalisti, tutti lobbisti, una ventina di commissari, un pugno di esponenti governativi. Insomma, 2.500 persone che si spostano ogni mese obbligatoriamente da Bruxelles a Strasburgo. Mancano i cammelli, qualche dromedario, un po' di vettovaglie e ci siamo. Pensate che solo il trasporto delle casse dei funzionari, le valigie, costa 28.000 euro al mese solo per trasportare le valigie. E tra l'altro ci sono i costi degli alberghi di Strasburgo, che nel giorno in cui arrivano i parlamentari stranamente raddoppiano. Hai visto mai? Tutto il mondo è paese. E lo stesso raddoppia anche il costo della compagnia aerea Brussels Airlines. Tutti ci guadagnano. E poi ci sono questi palazzi europei che a Strasburgo sono vuoti 3 giorni su 4. Io farei un bel applauso agli eurodeputati europei. Poi partiamo con l'attacco di Barack Obama alle agenzie di rating, nel caso specifico a Standard & Poor's. I rating sono stati influenzati da significativi conflitti di interessi. Standard & Poor's è stata spinta dal desiderio di aumentare profitti e quote di mercato, con l'obiettivo di favorire gli emittenti invece che gli investitori. Abbiamo individuato in oltre 5 miliardi di dollari l'ammontare dei danni agli investitori. È ciò che risulta dalle attività riguardanti, innanzitutto, titoli garantiti da mutui nel periodo da marzo a ottobre 2007. Durante questo lasso di tempo, ogni prodotto finanziario legato ai mutui subprime non solo ha avuto un andamento negativo, ma è fallito. Detta in modo semplice, questa presunta condotta è oltraggiosa e va al cuore della recente crisi finanziaria. L'indagine è iniziata nel novembre 2009 e ha evidenziato che ad inizio 2003 analisti di Standard & Poor's sollevarono preoccupazione sull'accuratezza del sistema di valutazione dell'agenzia. I vertici di Standard & Poor's, a quanto pare, hanno ignorato questi rilievi e tra il 2004 e il 2007 hanno nascosto i fatti, hanno fornito un quadro falso della situazione sia agli investitori che alle istituzioni finanziarie. Inoltre hanno portato avanti la manipolazione di criteri e modelli per aumentare i ricavi e quote di mercato. And took other steps to manipulate criteria and credit models to increase revenue and market share. Oh, chi dice questo? Chi dice che, insomma, volutamente Standard & Poor's ha ignorato le indicazioni che arrivavano dai suoi dipendenti e l'ordine di scuderia era tenete, non create panico, tenete alti giudizi perché c'era un interesse a tenere alti giudizi? Lo dice il ministro alla giustizia americano, Eric Holder, che ieri ha illustrato in conferenza stampa perché l'amministrazione Obama ha fatto causa civile a Standard & Poor's per 5 miliardi di dollari. Saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento, da un lato l'editorialista del Corriere della Sera, nonché ex commissario consob, Salvatore Bragantini, buonasera. Buonasera. E grazie anche al professor Marco Nado, editorialista del Sole 24 Ore, che insegna all'Università Bocconi di Milano economia degli intermediari finanziari. Buonasera, professore. Buonasera. Posso avere una battuta, poi andiamo in pubblicità e meteo e poi vi faccio fare invece il ragionamento? Ma insomma, c'è un giudice a Berlino o perlomeno a New York, Bragantini? Ma francamente sono rimasto sorpreso. Mi sarei aspettato che, diciamo, la guida di una campagna di questo genere potesse venire dall'Europa, invece l'ha fatto Obama, forse rafforzato dal fatto di avere avuto la rielezione. Comunque forse sì, forse c'è un giudice a Washington. C'è un giudice a Washington. Onaldo, nemmeno lei se l'aspettava, perché qua in Europa stavamo ragionando, c'era la procura di Trani, col massimo rispetto per la procura di Trani, forse più pesante il procuratore di Washington. Perché va detto che gli Stati Uniti hanno fatto varie indagini parlamentari e in particolare c'era stato il rapporto di una commissione ufficiale del governo che aveva detto più o meno quello che abbiamo sentito appena detto, che rappresenta il canovaccio della denuncia presentata dal Dipartimento di Giustizia. In un certo senso sarebbe stato sorprendente se dopo tutto quello che è stato detto, ripeto, da una commissione ufficiale del governo non si fosse fatto nulla. Sì, l'accusa, voglio essere molto chiaro, non è di aver sbagliato le valutazioni, tutti sbagliamo nella vita, no? È un po' ma di averle volutamente mantenute troppo alte, cioè senza mettere in evidenza i rischi. E quella è una cosa un po' diversa. Perché l'America decide solo ora punire l'agenzia di rating, una delle due più importanti, sono tre, c'è anche Moody's e Fitch, ma mi riferisco a Standard & Poor's, con una causa legale da 5 miliardi di dollari, che vuol dire 5 volte i ricavi in un anno di Standard & Poor's? Allora, c'è chi dice che in realtà l'America si sia svegliata non perché ha capito che le agenzie di rating erano in conflitto di interesse, che si facevano comodamente i fatti loro, ma perché Standard & Poor's ha abbassato il voto all'America. Allora, da un lato c'è un video che trovate su internet ed è contenuto anche nei documenti depositati in tribunale dal governo americano per la causa contro Standard & Poor's, e sono messaggi di posta elettronica, verbali di interrogatorio, rapporti interni, un video in cui sostanzialmente alcuni colleghi, alcuni analisti di Standard & Poor's, mentre continuavano a dire che alcuni titoli derivati che avevano un sottostante legato al mercato immobiliare e quindi ai mutui erano affidabili, dicevano sostanzialmente la casa sta bruciando, ripercorrendo una vecchia canzone dei Talking Heads degli anni scorsi, e quindi è una delle dimostrazioni per cui da un lato dicevano tutti tranquilli il titolo è affidabile e dall'altro invece dicevano bene la casa sta bruciando, ci comportiamo diversamente. Ma vorrei sapere da Salvatore Bragantini e poi da Marco Nado, può essere che l'amministrazione Obama si stia vendicando perché gli hanno abbassato il voto o, insomma, in America queste cose non succedono? Bragantini. Io credo che non sia, diciamo, una vendetta la ragione della cosa. Credo che forse ci sia, diciamo, un momento nel quale l'amministrazione Obama si sente abbastanza sicura da provare ad attaccare un bastione del, diciamo, dell'impero finanziario americano, che sono le società di rating, che ricordo in passato hanno difeso la loro azione sostenendo che chiunque le attaccasse attaccava il principio della libertà di pensiero, free speech. Ora, in questa situazione nella quale tanto grandi danni sono derivati da queste da questi rating dati alle società, io credo che a un certo punto l'amministrazione Obama abbia trovato il coraggio di attaccare questa vacca sacra. Credo anche che la condotta di Standard & Poor's, quanto rispetto alla domanda che faceva prima Sebastiano Barisoni, credo che la condotta di Standard & Poor's, come quella anche delle altre società di rating, sia stata molto ispirata in passato dal timore di smentire i propri giudizi precedenti. Cioè c'è stato un momento in cui forse queste società avrebbero dovuto cambiare i loro rating, cioè si rendevano conto che le cose non stavano in piedi, ma se avessero cambiato il rating in un momento nel quale apparentemente non c'era motivo per farlo, avrebbero accusato se stesse per quanto riguarda il passato. Secondo me si sono trovate in una situazione nella quale la loro condotta era sempre più vincolata, come uno che sta in una macchina che va a 200 all'ora verso l'abisso, è inutile che si butti fuori. Sì, però poi sentiremo anche il modo in cui si giustificarono, perché a me quando dicono male nostra hanno solo opinioni, beh, piano, perché se io sono tuo medico e ti dico lei può andare tranquillamente, può uscire dall'ospedale e poi tu stai male, la mia non è un'opinione, è una valutazione, cioè non puoi dire semplicemente ma noi davamo opinioni quando le tue opinioni erano fondamentali e vincolanti per sapere se uno comprava un titolo spazzatura, un titolo a rischio, un titolo abbastanza buono. Troppo comodo, se no. Comunque, professor Nado, non c'è una vendetta nemmeno secondo lei dell'amministrazione Obama, e può essere che Obama, che tanto non può più essere rieletto, ha cambiato il ministro dell'economia, che era molto molto molto vicino a Wall Street, Timothy Geithner, timido Geithner come lo chiamavo io, e insomma forse ha più coraggio anche perché tanto non rischia più nulla. Io credo che questo sia una cosa possibile, qui stiamo parlando di dietrologie naturalmente, ma come Bragantini non credo che ci sia una vendetta, perché come dicevo prima, proprio nel caso specifico dei rating sui titoli strutturati, che sono, non dimentichiamo, la causa fondamentale di questa crisi, della crisi finanziaria, le agenzie di rating hanno commesso degli errori di valutazione indotti, come dice la denuncia del Dipartimento di Giustizia americana, dal desiderio di accontentare a tutti i costi i clienti e intascare pingui commissioni. Quindi al massimo, eccola qua. In termini di idrologia, cioè, c'è questa cosa che dice lei di aspettare il secondo term del mandato di Obama quando la sua elezione, anche perché cominciato con Standard & Poor's, poi non è che puoi fermarti lì, perché l'inchiesta americana del governo americano di cui parlavo prima prendeva Moody's come beh, è ovvio, insomma, se le accuse scuola, le fai per Standard & Poor's, e raccontava cose di Moody's che non sono diverse da quelle di Standard & Poor's, quindi non credo che questa azione rimarrà isolata. A qualcuno fischiano le orecchie, secondo me. Sì, e si stringe anche qualcos'altro. Senta, devo dare il traffico e poi torniamo con l'ultima parte, poi la borsa. Una precisazione la devo dare, hanno ragione gli ascoltatori, quando abbiamo parlato dei 10.500 forestali calabresi, alcuni ci hanno scritto dicendo attenzione, quelli non fanno parte del corpo forestale dello Stato, sono solo in 9.000, sono forestali regionali con mansioni completamente diverse. Avete ragione, resta il fatto che 10.000 forestali in Calabria per 4.000 chilometri quadrati di foresta contro, la devo riprendere perché era troppo bella, 10.000 forestali regionali calabresi per 6.500 chilometri quadrati di foresta contro 5.000 rangers canadesi per 400.000 chilometri quadrati in Canada, la dicono lunga sulla produttività dei forestali regionali calabresi. È troppo comodo, potrei dire, madama la marchesa, dopo che hai fatto 400% in più di utili, portando a migliaia i voti di AAA, cioè la massima affidabilità, su titoli che poi hanno creato e causato la più grande crisi finanziaria, economica, occupazionale dei consumi dal 1929, è troppo comodo dopo dire: ma io avevo solo dato opinioni. Anche perché sarebbe come un medico che ti dice: ma la mia opinione è che tu debba continuare a mangiare, tu poi stai male, decedi, e scopriamo che il medico aveva un accordo con l'azienda alimentare che mi forniva le merendine. Professor Bragantini, siamo a questi livelli, perché poi insomma le responsabilità sono gravissime. Quello che avete sentito è un passaggio del documentario Inside Job, che ha vinto nel 2011 l'Oscar come miglior documentario, in cui, dati alla mano, viene fuori che tra il 2002 e il 2007 le agenzie di rating quadruplicano i loro utili, dando giudizi quasi sempre positivi perché al committente faceva comodo. Bragantini, responsabilità enorme, perché se il medico ti dice che tu puoi andare avanti è peggio che se lo dice un passante. Prego. Ma io sono assolutamente d'accordo, è chiaro che queste persone avevano un interesse fortissimo a dire certe cose anche se non erano vere, le hanno dette, ridette, continuate a dire perché gli conveniva, poi a un certo punto è scoppiato tutto. E come è stato ricordato prima, la crisi finanziaria ha fatto danni enormi, non solo finanziari, ma umani, esistenziali, perdite di prodotto, insomma i numeri, diciamo, che sono stati messi in movimento da questa valanga sono enormi. Io credo che questa azione, come diceva Marco Nado, sia solo l'inizio, seguiranno Moody's e Fitch e magari anche altri che hanno seguito lo stesso modo di lavorare, dare opinioni comode contro pagamento da parte di chi era interessato ad avere quelle opinioni comode. Certo. Qualcun altro perdeva i soldi e ha perso miliardi e miliardi. Credo che le compagnie di rating cambieranno radicalmente, perché questa azione della finalmente Obama espone totalmente la loro dipendenza. Professor Onado, mi dia una speranza, potrebbe essere solo l'inizio, cioè a 5 anni dallo scoppio della crisi Wall Street non solo non ha praticamente pagato, e mi riferisco anche alla City di Londra e altre piazze, ma addirittura le banche d'affari si sono rimesse a fare quello che facevano prima, cioè abbiamo scoperto che in questi 2 anni per esempio Monte dei Paschi ha raddoppiato la sua esposizione in derivati, al di là di quali derivati abbia comprato. Può essere il cambio, cioè che si vada anche oltre, cioè perché se non puniamo veramente rischiamo fra 10 anni di ritrovarci nella stessa posizione? Lo spererei moltissimo, francamente non vedo molti segnali in questa direzione. E anche negli Stati Uniti mi sembra che le idee iniziali di riforme anche incisive stiano segnando il passo. Mi riferisco per esempio alla proposta che aveva fatto Paul Volcker, non dimenticato, sì, governatore della Fed, persona di grande autorevolezza, che è tuttora, credo, ancora consulente del presidente Obama, ma in una posizione un po' defilata. Bene, la riforma di proposta da Volcker sta prendendo forma in modo molto annacquato. E tornare quindi alla separazione tra la banca che raccoglie risparmi e la banca che investe soldi in maniera speculativa, tornare a Glass-Steagall Act in qualche modo. Giustamente alcuni ascoltatori dicono per quello che riguarda Alan Greenspan, magari arriveranno anche a lui, al mitico presidente della Fed che nulla aveva visto in quei 10 anni. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Passiamo adesso alla borsa e non posso continuare sulle agenzie di rating. In una giornata in cui gli indici sono tutti in flessione, ma Milano non è la peggiore, nel senso che Parigi perde l'1,40, Francoforte ha perso l'1,1, Londra ha guadagnato lo 0,20, l'America invariata, mentre Milano ha perso lo 0,65%. Calo più forte Mediobanca, meno 3,86%, ma anche Tenaris, meno 3, Ubibanca, meno 2,40, Popolare Emilia Romagna, meno 1,70 come Unicredit, l'1,60 lo perde Intesa San Paolo, l'1,5 Snam, ma anche Enel e Mediolanum. Bene invece Azimut, più 3,70, Buzzi Unicem, più 2,80, Saipem, più 2,30, Exor, quindi la finanziaria che controlla il gruppo Fiat, più 2,30, Terna più 1,90, Finmeccanica più 1,60, Fiat più 1,30 come Enel, Green Power l'1,20 lo guadagna Campari, l'1,1 è il rialzo del Monte dei Paschi e di Impregilo. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, di Monte dei Paschi parleremo tra pochi minuti, quindi andiamo sugli altri titoli. Beh, Terna per esempio oggi ha presentato il piano industriale e mi sembra che il mercato la premi. Sì, esatto, infatti è stato uno dei migliori titoli, ha chiuso in progresso dell'1,9%, ma anche a metà pomeriggio, quando Piazza Affari peraltro era la peggiore borsa d'Europa, poi si è ripresa sul finale, come hai notato tu, era un titolo che stava andando bene. Questo perché piace più che i conti 2012 che ha annunciato oggi e che sono in crescita, piace soprattutto il piano industriale che hanno presentato i vertici della società fino al 2017. Del resto il piano industriale prevede un miglioramento dell'efficienza all'interno dell'azienda che si dovrebbe tradurre in un EBITDA margin, cioè i margini, quello che resterà del fatturato, superiore addirittura all'80%. La società ha poi confermato anche la politica di dividendi, quindi una cedola base almeno di 19 centesimi, e poi nell'arco di questi 5 anni, ovvero fino al 2017, sempre vertici di Terna hanno assicurato investimenti per 4,1 miliardi. E questo per quello che riguarda Terna. Oggi anche Telecom ha tenuto, lo dico perché domani c'è un importantissimo consiglio di amministrazione in cui dovremmo capire, ha tenuto per metà giornata, poi alla fine ha chiuso in calo dell'1,40%, ci mancherebbe, ma c'è un consiglio di amministrazione dove dovremmo capire cosa succederà di Telecom Italia Media, cioè della 7. Esatto, domani c'è il consiglio di amministrazione che analizzerà i conti 2012, ma soprattutto deciderà sulla 7. Peraltro si riunisce prima la mattina il consiglio di amministrazione di Telecom Italia Media, che rimarrà diciamo aperto, mentre nel pomeriggio si terrà il consiglio di amministrazione di Telecom Italia, che deciderà su questa cessione. La sensazione comunque è che probabilmente non succederà niente, anche se dalle ultime indiscrezioni si è affacciato all'eventualità di comprare la 7, quindi non tutta Telecom Italia Media ma solo la 7, un nuovo compratore, Europa 7. Vediamo che cosa succederà domani. Comunque oggi va detto che i titoli hanno chiuso in calo anche perché KPN, la società olandese che opera nel settore delle TLC, ha annunciato un aumento di capitale da 4 miliardi, è andata giù e ha trascinato al ribasso tutte le compagnie telefoniche. C'è qualcosa su Impregilo? Non te lo chiedo perché alcuni ascoltatori mi stanno segnalando che nell'after hour il titolo sta guadagnando il 4% con volumi molto sostenuti. In realtà nella borsa normale il titolo ha guadagnato l'1,1%, ma chiedo se mi sono perso qualcosa. Ma di notizie oggi sono uscite, in effetti sul finale ha chiuso in progresso dell'1,1%, oggi va detto che è andato un po' bene in tutta Europa, peraltro il settore un po' affine, non è nemmeno lo stesso settore comunque del cemento e delle costruzioni, abbiamo visto una buona performance di Buzzi, ma soprattutto di Italcementi, che ieri a borsa chiusa aveva indicato l'andamento del fatturato in lieve calo ma in linea con le attese o forse superiore alle attese, per questo è stata premiata oggi con un più 6%. Ancora tra i titoli abbiamo visto Buzzi Unicem, tu lo ricordavi, Saipem anch'essa, Autogrill più 0,55%, ma soprattutto Vorrei capire se c'è qualche novità su Mediobanca, che ha perso invece il 3,86%. Oggi sono andati male un po' tutti i bancari, peraltro si sono ripresi, a metà pomeriggio andavano molto male, UBI perdeva quasi il 4%, Unicredit perdeva quasi il 3%, Mediobanca è stata tra i pochi che non si è ripresa sul finale come hanno fatto altri istituti di credito. Per quello che riguarda invece i migliori e i peggiori in assoluto, Seat pagine gialle, oggi una fiammata su un titolo che vale 0,0013. E comunque euro. La capitalizzazione dell'azienda è di 20.000 euro. Sì, infatti 20.000 euro, adesso manca un po', ce la compriamo noi, facciamo una colletta, più 18%, SNAI più 11%, D'Amico International più 9,12%, Italcementi più 6,70%, fronte opposto, chi più perde... El Venture Group meno 20%, titoli molto sottili, il Seat pagine gialle sul risparmio l'8,50, Poligrafici editoriale meno 5,70, il gruppo Rizzoli meno 5,33, Ciccolella meno 5,33%. Percento. E allora invece cambiamo tema, o meglio restiamo in tema di borsa, ma per parlare di quella che sta diventando un appuntamento, lo ripeto, ormai tradizionale in Focus Economia, purtroppo, e mi riferisco alla vicenda Monte dei Paschi di Siena, molta attesa per quello che potrebbe uscire dal Consiglio di Amministrazione che è ancora in corso. Allora, mentre oggi alcuni ispettori hanno controllato il bilancio 2011 del Comune di Siena, ma poi hanno fatto sapere dall'Ispettorato Generale delle Finanze che sono controlli ordinari, ce ne sono decine sul territorio, non sono legati agli ultimi avvenimenti, dicevo, mentre c'era preoccupazione anche per questi ispettori nel bilancio comunale del Comune di Siena, c'è un attesissimo consiglio di amministrazione oggi per quello che riguarda il Monte dei Paschi. Stando a quello che abbiamo capito, il buco causato dagli investimenti sui titoli derivati non è più di 700 milioni ma raggiunge il miliardo, nel senso che l'operazione Santorini fatta con Deutsche Bank porterebbe una perdita di 450 milioni, l'operazione fatta con Nomura dal nome Alexandria porterebbe una perdita di 300 milioni, l'operazione fatta con JP Morgan che si chiama Nota Italia porterebbe una perdita di 170 milioni a cui si aggiungono 120 milioni di costo del personale non ancora contabilizzato. Tutte operazioni insomma andate bene, no? Cesare Peruzzi del Sole 24 Ore sta seguendo il consiglio di amministrazione, buonasera. Buonasera a voi. Novità negli ultimi minuti? No, novità no, sono riuniti, ma questa diciamo non è una notizia particolare perché da quando è iniziata l'era profumo, cioè dall'aprile scorso, le riunioni del CDA di Rocca Salimbeni sono piuttosto lunghe e non finiscono mai prima di, mi verrebbe di dire, di buio, ma ormai siamo in inverno ed è già buio da un pezzo. Ecco, il presidente Alessandro Profumo ha chiarito ieri, ha detto no, non stiamo parlando di un buco, ha detto che il 2013 sarà il momento della verità, auspicandosi che lo spread non risalga, ma ha detto soprattutto non stiamo parlando di un buco, ci sono operazioni che spalmano la loro perdita in un certo lasso di tempo. Ci tengo a precisare che non stiamo parlando di un buco, nel senso che ci sono delle operazioni che hanno spalmato una perdita nel tempo. Il fatto che noi decideremo di rivedere, se il Consiglio sarà d'accordo, il bilancio, significa che mettiamo quella perdita che è stata spalmata nel tempo nei bilanci della banca immediatamente. Dopodiché nel tempo recupereremo questa somma, quindi l'impatto, se guardiamo un periodo di 30 anni, è uguale a zero. Il problema è che oggi dobbiamo attualizzare ad oggi quell'ammontare. Sì, tra 30 anni sarà anche pari a zero, ma non so dove saremo noi, lo dico con il massimo rispetto per Alessandro Profumo. Cesare, da questo punto di vista tu ci confermi però che, stando a quello che è emerso, la cifra su cui si ragiona del buco, io lo chiamo buco perché così a me sembra, generato dagli investimenti scriteriati, o meglio fatti anche per altri interessi, secondo l'ipotesi della magistratura, perché c'era il pagamento di qualche stecca dietro, potrebbe ammontare a 1 miliardo complessivamente? Diciamo che a 1 miliardo ammonta la pulizia che la banca oggi porterà in consiglio d'amministrazione, poi decideranno, come sentivamo dalle parole del Presidente, deciderà il consiglio la modalità per diciamo smaltire questo che è il risultato della pulizia. Credo di interpretare le parole di Profumo dicendo che non si tratta di un buco, in quanto le perdite, queste perdite che tu hai ricordato prima, erano insite in quei prodotti che erano prodotti a rischio in qualche modo, perché erano legati all'andamento dei titoli e o dei tassi di interesse, e che anziché aspettare i 30 anni o quello che era il termine naturale, l'attuale vertice della banca proporrà di chiudere rapidamente per poi entrare in un terreno più tranquillo. Quindi adesso dice non è un buco, sì, è possiamo chiamarlo anche c'era. Possiamo chiamarlo anche Giorgio, però scusami Cesare, nel momento in cui una banca chiede 4 miliardi di euro allo Stato per sopravvivere, allora un buco da qualche parte c'è, insomma, se no non li avresti chiesti. Ho capito cosa dice Profumo. Dice potevamo aspettare di portarli a scadenza, a parte il fatto che in qualche modo devi contabilizzare queste perdite, ma non so se sarebbe convenuto portare a scadenza perdite di quel genere. Detto questo, non starei per troppo tempo sull'idea di buco o non buco. La banca ha un buco, se no 4 miliardi di euro non li chiedeva allo Stato. Tra l'altro domani, la prossima settimana, il Monte dei Paschi emetterà queste obbligazioni, perché tecnicamente è il Monte dei Paschi che chiede un prestito ed emette un'obbligazione. Questa obbligazione la compra tutta il Tesoro, pari a 3 miliardi e 9, e poi si apriranno le varie ipotesi. Se riesce a ripagare in contanti, bene. Può ripagare emettendo altre obbligazioni, ma a questo punto aumenta il suo debito. Oppure può ripagare il Tesoro dandogli delle azioni. In quel caso, di fatto stiamo nazionalizzando il Monte dei Paschi, seppur in piccola parte, perché il Tesoro entrerebbe nel capitale del Monte dei Paschi. La tua previsione qual è di queste tre? Poi domani avremo forse anche l'amministratore delegato Viola, quindi lo chiederemo meglio a lui. Riuscirà a ripagare cash? Credo che fare previsioni in questa situazione sia poco prudente. Vorrei puntualizzare che il prestito pubblico, l'aiuto di Stato, è legato a aspetti di tipo patrimoniale, certo, che sono stati evidenziati dall'autorità europea, che ha fatto un'indagine su tutto il sistema bancario europeo e a ciascuna banca ha detto quanto doveva adeguare il proprio patrimonio in funzione dell'attività che stava svolgendo. Questo per motivi di prudenza. Allora, questo aiuto è un qualcosa che la banca si è impegnata a restituire. Se non fosse in grado di riuscirci, trasformerebbe questo aiuto in azioni della banca e quindi lo Stato diventerebbe di fatto il maggior azionista del Monte dei Paschi. E quello che tu chiamavi buco e che loro chiamano azione di pulizia del bilancio, sì, va bene, certo, sono perdite contabili, sì, no, sono due cose diverse, sì. Cioè vanno a incidere sul conto economico del bilancio 2012, che a questo punto avrebbe una perdita superiore a quella ipotizzabile. Teniamo conto che la banca ha già perso nei primi 9 mesi più di 1,6 miliardi, perché la pulizia è già stata fatta anche su altri fronti, per esempio hanno svalutato tutti gli asset immateriali che avevano, ormai non ne hanno quasi più, e questo ha comportato oltre 1,5 miliardi di svalutazione. Quindi è possibile che la perdita 2012 sia superiore a 2 miliardi, diciamo, azzardo una cifra. Questo però è il bilancio 2012 e non attiene al patrimonio, come invece andrà a impattare i Monti Bond. Esattamente. Sì, detto questo, è verissimo che un conto è la richiesta europea di arrivare a una patrimonializzazione di un certo tipo, superiore all'8%, altra cosa sono i buchi che vengono scoperti della precedente gestione e messi in evidenza. Io continuo a chiamarli buchi perché non ho nessuna voglia, diciamo, di edulcorare la pillola sul Monte dei Paschi, è una banca praticamente, secondo me non ce la farà ripagare, punto e basta, però è una mia ipotesi, ma insomma non possiamo certo dire, è vero che l'operazione di Viola di Profumo è stata di far venire alla luce quello che quantomeno da un punto di vista del bilancio era messo giù male, perché se poi erano perdite che tu non contabilizzavi, per cui è vero che c'è un'operazione di trasparenza che mette in evidenza i buchi generati nel passato. Cerchiamo di dare questa sintesi, se no sembra quasi che Monte dei Paschi alla fin fine non abbia problemi, e se uno ascolta alcune parole sembra quasi che insomma tutto sommato siano operazioni, va bene per il 2012, no, qui c'è una banca che è in ginocchio per il modo in cui è stata gestita, poi andiamo a stabilire le responsabilità, se ci sono state stecche o non stecche, c'è la procura che indaga e quant'altro. Quello che è certo, Besozzi disse, quello che è certo è che il bandito Salvatore Giuliano è morto, quello che è certo è che il Monte dei Paschi è in ginocchio per la gestione di questi ultimi anni. Grazie a Cesare Peruzzi. Scrivono alcuni ascoltatori in merito a Impregilo che la voce che sta girando è che Salini è pronta a lanciare un'OPA, un'offerta totalitaria sul titolo, del motivo per cui nell'After Hour sta guadagnando oltre il 4%. Vi giro quello che hanno scritto un paio di ascoltatori, appunto non voglio rispondere, ma dal Monte dei Paschi passiamo a una cosa che a me ha lasciato abbastanza perplesso, l'opposizione tedesca. Cosa è successo? Ieri il numero uno francese Hollande, François Hollande, ha detto occorre che la Germania capisca e che l'Europa capisca che un euro così forte, oggi lo yen è debole, il dollaro continua a essere debole, rischia di vanificare tutti gli sforzi che stiamo facendo per aumentare la competitività dell'area euro, cioè noi possiamo anche diventare più produttivi, ma se poi andiamo sui mercati con un euro a 1,35 ci bruciamo comunque le quote di mercato. La Germania ha risposto: non è con il cambio valutario che si recupera competitività, e l'euro non è sopravvalutato se si guarda la media storica. A parte il fatto che non sono d'accordo per nulla, comunque Alessandro Merli, che è corrispondente a Sole 24 Ore anche da Francoforte. Buonasera, Alessandro. Buonasera a voi. Allora, facci capire una cosa, perché poi noi siamo in campagna elettorale, vabbè, ma dopo la campagna elettorale bisognerà andare a Bruxelles e cercare di capire con la Germania se ci possa essere una posizione più morbida. La Germania dice questo perché tanto era abituata al marco forte, un euro a 1,35 non le fa male, cioè pensa a se stessa più che all'Europa. Diciamo che se guardiamo uno studio che è uscito oggi da Deutsche Bank, è abbastanza interessante, la soglia del dolore, come la chiamano degli esportatori tedeschi, è più alta di quella degli esportatori italiani e francesi. Grazie. Cioè, essendo più competitivi, gli esportatori tedeschi cominciano a sentire l'euro forte a un livello più alto di quanto non lo sentano i nostri. Poi sui calcoli, diciamo, e sui livelli si può obiettare, ma non c'è dubbio che, come dicevi, abituati da decenni di marco forte, i tedeschi diciamo che a queste situazioni rispondono meglio, e è diciamo così proprio un credo tedesco che le svalutazioni non servano a recuperare competitività, come ha detto oggi Seipert, il portavoce della Merkel. È interessante però questa posizione, perché la settimana scorsa, quando c'è stato l'annuncio giapponese che avrebbero fatto di tutto in pratica per svalutare lo yen, le reazioni più piccate, diciamo così, erano venute proprio dalla Germania, sia da Schäuble, ministro delle finanze, che addirittura dal presidente della Bundesbank Weidmann, il quale aveva parlato del problema dell'indipendenza della banca del Giappone, ma insomma di fatto era sembrato che alla Germania desse fastidio questa svalutazione dello yen, il cui rovescio della medaglia ovviamente è la rivalutazione dell'euro. Oggi però il governo ha rimesso un po' a posto le cose. Sarà interessante secondo me sentire quello che dirà domani Mario Draghi alla consueta conferenza stampa mensile dopo la riunione della BCE. Il mese scorso Draghi, richiesto di un commento sulla questione dei cambi, aveva detto che non è un obiettivo della banca centrale e che comunque è un indicatore al quale la banca centrale guarda con attenzione. Lo stesso Draghi però aveva detto di non ritenere che a questo punto l'euro fosse sopravvalutato guardando all'andamento storico della, della moneta unica. Della e tra l'altro nel frattempo però l'euro ha accelerato, vedremo sì. Cosa dirà Draghi domani. E tra l'altro domani Draghi forse parlerà anche del vicenda Monte dei Paschi, visto che è stato governatore della Banca d'Italia quando fu lanciata l'operazione su Anton Veneta. Io non capisco i tedeschi, ma non è la prima volta, nel senso che ho capito che per loro regge anche l'euro a 1,35 perché erano abituati al marco, perché hanno una struttura produttiva di grandi imprese molto delocalizzate all'estero, ma che male gli farebbe un euro più debole? Cioè esporterebbero un po' di più, cioè se questo mette in difficoltà altri partner dell'Europa, torniamo al solito principio: quello che va bene per la Germania deve andare bene anche al resto d'Europa, ma non quello che va bene al resto d'Europa va bene alla Germania. Grazie Alessandro Merli, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.